Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Give me five. All right. Give me five. All right. Give me five. All right. 5 porzioni di frutta e verdura al giorno tolgono il medico di torno e allungano la vita. Buongiorno da Nicoletta, così dicono le ricerche e da qui vogliamo partire. In studio con me il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno dottore, benvenuto. Oh, buongiorno, benvenuti. Non togliete assolutamente, non togliete il medico di torno, perché lo dico no. Prodomo mea, va bene, d'accordo. Tenetelo. Però mangiate lo stesso la frutta e la verdura. Almeno come amico. Assolutamente sì. Dottor Speciani, ci sono tante ricerche che dicono che inserire quotidianamente porzioni di frutta e verdura nella nostra dieta ha una serie di vantaggi e di benefici per la nostra salute, direi proprio a cascata. Quali sono? Ce ne sono veramente tanti, perché intanto ad esempio mi piace parlare di una bella ricerca che è stata pubblicata da poco e fatta dal National Heart and Lung Institute di Londra, sui ragazzini di Creta, quindi di età classicamente mediterranea vera, sono ragazzi che quindi mangiano frutta e verdura in abbondanza, integrata anche con le proteine tipiche della dieta mediterranea, quindi vuoi il pesce, devo dire, cito volutamente perché chi va in Grecia è vero che trova la soluzione di pulizia, però trova anche persone che mangiano salamini un po' perversi, sì, cose un po' strane eccetera, e questo è un bel bilanciamento, perché in effetti si scopre che ad esempio gran parte delle componenti allergiche vengono controllate, un bel livello di reattività dal punto di vista respiratorio, delle malattie respiratorie sono controllate, cioè quando noi diamo all'organismo le sue capacità giuste per difendersi, questo le mette in atto. E ecco, però devo dire che ad esempio la World Cancer Research Fund, cioè l'associazione che si occupa della dieta per il cancro fondamentalmente, sì, che da un po' da anni da questo tipo di indicazioni, in realtà dà da sempre questa logica del più frutta e più verdura, dice anche un mucchio di altre cose, tipo meno zuccheri, dice meno carne rossa, dice più pesce, dice più legumi, tanti legumi che sono ricchissimi di fibra, generalmente queste cose poi dalla stampa non vengono riportate, no? Perché si parla solo della frutta e della verdura. In realtà ce ne sono di più di elementi che possono fare del bene. E io sono. Mi piace anche dire una cosa, perché intorno un po' alla logica frutta e verdura, poi lo vedo nei miei blog, lo vedo su Eurosalus, lo vedo qui, dove a volte chiacchieriamo insieme, nascono sempre delle situazioni conflittuali. Io amo definirmi un onnivorista fondamentalmente, con un giusto equilibrio tra le varie componenti. E in questo cito sovente gli esquimesi. No? Sì. Gli eschimesi erano persone, sono persone che quando sono stati scoperti gli omega 3, quindi il rapporto benefico degli omega 3, la dieta degli eschimesi era foca fritta e orso fritto, orso bollito e foca bollita, cioè erano carni, proteine eccetera, per fortuna anche pesce, senza né frutta né verdura, eppure avevano una ridottissima patologia cardiovascolare. Allora non c'è mai un obiettivo unico, lì si è scoperto il valore degli omega 3, e quello che è importante è scoprire che nell'alimentazione ci sono degli elementi che possono a volte compensare anche un po' di sani difetti, come dire, come li chiamo io, quindi senza essere ossessivi e determinati solo con un'eliminazione piuttosto che non con altro. Quindi una regola, che è quella della dieta varia, è una regola che dobbiamo sempre tenere presente. Frutta e verdura danno anche il colore, poi dopo ne parliamo, perché oggi finalmente una giornata colorata e quindi è bella. Colorata, estiva. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, come sempre potete scriverci 349-238-6666, mandarci un'email a esserebenessere@radio24.it, leggeremo naturalmente i vostri post su Facebook e potete seguirci su Twitter. L'hashtag di oggi, dottor Speciani, non abbiamo avuto una grande botta di creatività, abbiamo messo frutta e verdura, quindi seguiteci. Ma a proposito di frutta e verdura, 5 porzioni, queste 5 porzioni che vengono sempre ricordate, sottolineate, ma significano ad esempio 3 frutti e 2 contorni o 4 contorni e un frutto? Insomma, la domanda è indifferente se si consuma più frutta o più verdura, o dipende dai casi? Perché frutta e verdura le accomuniamo, ma sono tra loro diverse, già il sapore lo dice. Ma intanto perché solo 5? Questa è la mia critica immediata, perché in realtà io vedo che tra i miei pazienti, le persone che che fanno della frutta e della verdura una sorta di presenza costante. Significa che un po' come fanno i francesi con le crudité, significa predisporre già, aprire in frigo e trovare dentro dei pezzi di sedano tagliati, dei finocchi che uno può mangiare in qualsiasi momento della giornata, al posto di mangiarsi un cracker o un grissino. Quindi significa avere una dimensione nei confronti delle sostanze crude, vive, vitali, fondamentalmente un rapporto di continuità. Poi se parliamo invece di porzioni, ad esempio, andiamo per secondo le librette, no? Sì. Allora, secondo le librette si dice che circa la porzione di frutta e di verdura è di circa 150 grammi, che ovviamente cambia, perché se uno prende 150 grammi di una mela è diverso da 150 grammi di sedano, anche in termini di calorie contenute, anche in termini di sali minerali presenti, eccetera. Però diciamo che mediamente si dice che le 5 porzioni sono 3 frutti, una mela piuttosto che un'arancia, piuttosto che, oppure 3 piccoli frutti, tipo 3 albicocche, 2, no, ci sono delle albicocche OGM, secondo me, che sono grandi come un melone, quindi oppure una manciata di ciliegie, adesso, esatto, una manciata di ciliegie, un cestino di fragole. Ma assolutamente. Allora, io credo che noi dobbiamo anche seguire rispettosamente la parte stagionale, per cui non ha senso mangiarsi le fragole a dicembre, mentre la natura oggi ci dà una somma di sostanze bellissime, tipo giusto le albicocche, che purtroppo quest'anno non sono tantissime, però stanno arrivando, le ciliegie che arrivano, le fragole ci sono. Sì, abbiamo avuto una primavera difficile, per cui... Sì, mi è sembrato, sì, in primavera, dai, hai avuto questa sensazione che ci sia stata. Ma, dottor Speciani, frutta e verdura hanno delle differenze nutrizionali, noi ce ne rendiamo conto, la frutta è generalmente più zuccherina, mentre la verdura la associamo a un sapore neutro o salato. Ecco. Direi di sì, ci sono davvero l'elemento che crea questa differenza, proprio la contenuto zuccherino, su cui però vorrei tranquillizzare molto le persone, perché a volte vedo soprattutto le persone che vengono cercando un consiglio per dimagrire, che iniziano a dare delle definizioni. Ma ho tolto la frutta perché è dolce. Allora, perché ingrassa, perché gonfia. Non è vero, lo posso urlare, battere come Gorbaciov, no? Chi era Khrushchev che batteva la scarpa sul tavolo all'ONU? Non è vero, nel senso che di fronte, una cosa è se noi mettiamo nel nostro corpo uno zucchero puro, come dire, quando noi mettiamo dentro, a parità di calorie, se io metto dentro 2 cucchiaini di zucchero, ho un innalzamento immediato della glicemia. Se io metto dentro una mela, che dal punto di vista calorico è lo stesso, in realtà ho dentro la fibra, ho dei sali minerali, ho delle sostanze antiossidanti, ho un rallentamento nell'assorbimento. Quelle calorie che sono le stesse, magari dei 2 cucchiaini di zucchero, vengono assorbite con lentezza, non danno un picco glicemico e quindi non determinano ingrassamento. Per cui è vero però che in effetti, secondo me, con un minimo di attenzione alla stagione, se seguiamo frutta e verdura di stagione, avremo una dominanza di frutta magari in estate e una dominanza di verdura in altri momenti. Allora, io le porzioni creano sempre problemi qua per i nostri ascoltatori, perché anche Maria Grazia mi scrive: ma quanto è una porzione di verdura? 100 grammi, un pugnetto, aiuto. 150, allora, dicono le tabelle. Io dico: non preoccupatevene troppo. Non preoccupatevene anche troppo. Perché, ecco, possiamo mangiarla come spuntino al mattino. Esatto. Ci sono poi dei momenti in cui è meglio consumare frutta e verdura. Al mattino è sicuramente una buona occasione. Iniziare la mattina perfettamente. Con e qui ribadisco, spuntino... ribadisco mantenere la fibra. Io, una delle cose che, infatti, alcuni nuovi centrifugatori fanno la centrifuga, ma rimettono dentro un po' del maltolto. No? Sì. Perché se io con la centrifuga tiro fuori solo ed esclusivamente il succo zuccherato. Sì. E questo non va bene, questo mi dà una botta, magari pieno di vitamine, però mi dà una botta di zuccheri. Insomma, bisogna avere il mix, dai. Allora, in ogni caso i vantaggi ci sono, quindi non stiamo proprio lì attenti al grammo, saranno 100, saranno 150, un pugnetto, un pugnone, una manciata, insomma, inseriamoli a tavola perché il nostro benessere ci guadagna. Frutta e verdura sono alla base di una dieta sana e varia. Il loro prezioso contenuto in acqua, vitamine, minerali, fibre e sostanze colorate protettive garantisce al nostro organismo un pieno di vitalità e salute, rinforza le difese e riduce il rischio di obesità, diabete, tumori e malattie cardiovascolari. Grazie all'elevato apporto di fibra, frutta e verdura regolarizzano il transito intestinale e conferiscono un senso di sazietà, limitando il consumo di cibo. Alcune fibre contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e il rischio di ipertensione. Tratto dal sito del Ministero della Salute. Dottor Speciani, noi possiamo aggiungere anche un altro vantaggio, che è quello di rendere più colorata la nostra dieta. Il colore non è solo una questione estetica, il colore, o meglio i colori, perché sono diversi e vanno combinati e alternati tra di loro, portano tanta salute. Abbiamo il blu, viola, il verde, il bianco, il giallo, il rosso. Ah, io quando chiedo, quando interrogo i ragazzini che vedo nel mio studio, in genere gli dico: cosa abbiamo di viola? E vanno sempre in crisi, sul viola sono un po' in crisi. Poi per fortuna no, qualcuno mi inventa l'uva, la prugna, sì, le cose eccetera. Però all'inizio restano, perché sul rosso o sul giallo sanno dire l'arancia, l'albicocca, le cose eccetera. Ed è vero, perché ogni colore rappresenta la lunghezza d'onda di alcune sostanze, quindi la vediamo noi, sì, effettivamente, di alcune sostanze attive. Ed è uno dei modi con cui la natura ama essere cercata, perché rispetto all'uniformità, che so, di un campo piuttosto che di altro, ecco che improvvisamente un frutto rosso, una verdura improvvisamente verdissima con un colore piacevole attrae, quindi c'è un'azione estremamente positiva. E quindi una buona regola è mescolare i colori. Insomma, assolutamente. Chiediamo di mangiare più frutta, di mangiare più verdura, di mescolare anche i colori e di alternarli. Il piatto, insomma, tavolozza, il dai. Il piatto tavolozza. Alfredo, buongiorno, ci chiama da Rimini all'800 24 00 24. Benvenuto. Grazie, buongiorno e complimenti della trasmissione. Dunque, avevo una domanda da fare. Io sono uno che di frequente mangio la frutta, diciamo, 2 o 3 volte al giorno, e anche abbondantemente. Alla sera mi trovo ovviamente di essere dipendente, cioè di non fare a meno di mangiare la frutta lo stesso, magari pere con il formaggio e con il pane, magari fragole come in questo momento con il pane, ciliegie. È vero che alza la glicemia e quindi non bisogna mangiare la frutta la sera? Dunque, diciamo, la cena la faccio verso le 7:30, 8. Dunque, voglio dire, ci sono delle frutte, anche ad esempio anche la frutta secca, che accompagnate con il pane sono buonissime. Sì, però lui mi sta raccontando, praticamente mi ha raccontato pane e frutta in tutta la giornata. Alla sera gli piace, mi viene quasi in mente, una sorta di dipendenza. No, ma mi viene in mente, anche adesso mi ha detto che in questo momento sto mangiando pane con le fragole, Alfredo. È vero, sì, quindi la logica è che magari la glicemia si sta alzando più per l'uso del pane che non per la frutta. Dobbiamo fare qualche ragionamento in questo senso. Diciamo che mediamente in soggetti sani, che fanno un'attività sportiva giusta, che mangiano abbastanza equilibrati, la frutta è assolutamente libera e può essere mangiata al mattino, a pranzo, a cena, dopo cena, tra un pasto e l'altro, senza grossi problemi, non interferisce con la glicemia. Dove se una persona invece è già magari prediabetico, ha delle glicemie che si muovono eccetera, ecco che può essere utile fare un ragionamento sul bilanciamento con il resto. Quindi da questo punto di vista, e torniamo però ai colori fondamentalmente, che sono tra gli elementi più belli, a me il viola e il blu mi piacciono veramente tantissimo. Penso ai mirtilli, penso alle, dove lì abbiamo gli antocianosidi. Perché? Perché sono tra le sostanze che maggiormente in quest'ultimo periodo sono richiamate come tra gli antiossidanti più importanti, più potenti. Quindi è un colore bello, piacevole, mi stimola. E quindi ecco, cerchiamo di pensare non solo a quanta frutta e verdura inseriamo nella nostra dieta, ma anche ai colori che arrivano più spesso sulla nostra tavola. 800 24 00 24. Allora vediamo dunque, quant'è? Non ne posso più di questa storia. È giusto, ho sbagliato e la devo pagare, e la pago. 5.000 lire, eh? L'ho pagata, tenete. Questa è l'ultima foto che ti fai. Oh, ma quanto volete? Non c'è prezzo per quello che c'è qua. Non c'è prezzo? Ma quanto costano le banane a Palermo? Frutta, verdura, sana e sicura è il nome di una campagna di informazione ed educazione rivolta a noi, ai consumatori, proprio sulla salubrità e sulla sicurezza dei prodotti ortofrutticoli freschi. E la campagna è promossa e portata avanti da Alimos, che raggruppa le principali organizzazioni di produttori e cooperative agricole italiane, occupandosi tra l'altro da tanti anni, da circa 40 anni, di tutela dell'ambiente e del territorio e di educazione alimentare, ed è una campagna che ha il sostegno dell'Unione Europea e del Ministero Italiano delle Politiche Agricole. È una campagna che si articola in 3 anni, in Italia, in Francia e in Germania siamo al secondo anno. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Borghi, ordinario di diritto alimentare all'Università di Ferrara e avvocato di diritto alimentare. Buongiorno avvocato, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno a lei, buongiorno. Io non so se chiamarla avvocato o professore, come la chiamo? come le viene, come, anche come Paolo viene. Va bene ugualmente. La frutta e la verdura che arriva sulle nostre tavole è sana e sicura? Siamo sicuri? Beh, io direi che siamo sicuri. Io amo sempre ripetere a chi mi rivolge questo tipo di domande che viviamo nella parte del mondo che è al top in fatto di garanzie. Io parlo ovviamente dell'aspetto legale, delle garanzie giuridiche sulla sicurezza. Lei pensi che esiste un'organizzazione internazionale chiamata Commissione del Codex Alimentarius, creata dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stabilisce degli standard? Ebbene, sotto alcuni profili la legislazione europea è addirittura più sicura e più rigorosa di quanto esigerebbe il Codex Alimentarius. Aggiungiamo che in Europa abbiamo sia norme su quali fitofarmaci possono andare diciamo nell'ambiente, e quindi sui frutti, sulla verdura, e norme specifiche sulla presenza negli alimenti, un regolamento del 2009 sull'immissione in commercio dei fitosanitari, una direttiva sempre del 2009 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi e un regolamento del 2005 sui livelli massimi di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi. Poi c'è tutto un sistema nazionale di controlli con una serie di decreti legislativi nazionali che si combinano con le disposizioni dell'Unione Europea, del regolamento sui controlli alimentari del 2004, tutto naturalmente poi affidato alla gestione dei SIAN, dei servizi igiene, alimenti e nutrizione delle regioni, che curano anche formazione agli operatori che vendono e a quelli che utilizzano i prodotti fitosanitari, il tutto coordinato, essendo servizio sanitario nazionale, dalle regioni, e con qualche inevitabile differenza da regione a regione, ma nel complesso direi Europa al top e Italia anche. Quindi pensi, dottor Speciani, che cosa c'è dietro una mela o un cestino di fragole? Ma, professor Borghi, norme e controlli immagino anche per quanto riguarda il tipo di produzione. Sì. Convenzionale, integrata, biologica. Certo, allora intanto vorrei partire da una premessa molto rapida, e cioè che il convenzionale, quello che la produzione di frutta e verdura che non è né agricoltura integrata né produzione biologica, è comunque buona, proprio per i motivi che dicevo prima, cioè è tutto ciò che ci può essere sulla superficie, che comunque con una corretta prassi nel momento in cui la si mangia può essere eliminata, è estremamente controllato. Dopodiché ci sono anche delle soluzioni alternative, delle scelte di consumo alternative, ci si può orientare verso il bio oppure verso la produzione da agricoltura integrata. Teniamo presente che le produzioni biologiche non nascono inizialmente per garantire un alimento più sicuro, nascono per tutelare l'ambiente, usare meno chimica per inquinare di meno, questo è il concetto. Il biologico è disciplinato dalla Unione Europea, c'è un regolamento attualmente in vigore del 2007 che stabilisce in tutta Europa le stesse norme tecniche di produzione, lo stesso sistema di certificazione dei produttori biologici affidato a organismi di controllo che rispondono a determinati standard. Poi ci sono dei controlli naturalmente a posteriori, può arrivare qualcuno a verificare che queste regole tecniche siano rispettate. C'è qualcuno che nutre dubbi e riserve, e bisogna dire che qualche episodio a volte dà anche motivi per avere dubbi e riserve, persino tra gli operatori. A me capita di parlare con le società di certificazione e qualcuno mi dice certi giorni ci credo di meno, poi però si ricrede perché in effetti il sistema è buono. Ovviamente è certo, da caso a caso, serietà dei controlli, in Italia siamo a un buonissimo livello di controlli, non sempre è così dappertutto. L'agricoltura integrata, attenzione dottoressa, e attenzione, raccomando anche agli ascoltatori, l'agricoltura integrata è quel metodo di produzione che bilancia i metodi naturali e l'uso della chimica. Il principio è: finché ce la facciamo con i cosiddetti metodi naturali, che poi sono naturali fino a un certo punto, ma evitiamo di usare la chimica. Non c'è una legislazione dell'Unione Europea, non c'è una legislazione nazionale, ci sono produttori che si fanno certificare sulla base di standard ISO, sì, privatamente quindi, oppure, visto che la nostra Costituzione italiana di cui si parla tanto, ecco, bisogna che ricordiamo che affida l'agricoltura alla competenza delle regioni. Ecco che molte regioni, quasi tutte, hanno adottato disciplinari regionali, disciplinari che contengono determinate regole. Il bio è a livello europeo e integrate invece risponde a delle normative regionali. Regionali, che però implica qualche diversità da regione a regione. Il consumatore ha un compito molto difficile di informarsi, perché ovviamente se solo in Italia avessimo 18-20 diversi disciplinari con qualche piccola differenza e marchi diversi, è più difficile riconoscerli. Se poi parliamo di frutta e verdura di origine non italiana, allora il discorso cambia, si complica molto. Avvocato, vorrei venire a fare la spesa con lei, ma devo dare la linea ai mercati, ma intanto la ringrazio per le indicazioni e le rassicurazioni. Buona giornata. Buona giornata anche lei, dottor Speciani, e a tutti gli ascoltatori. Essere e benessere. Banane, lampone, ma noi aggiungiamo melanzane, pomodori, cipolle, lattughe, kiwi, fragole. Ma le cipolle quelle rosse. Le cipolle rosse. 800 24 00 24, abbiamo in linea con noi Andrea Ribaldone. Ciao Andrea. Ciao Nico e ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Executive Chef Italy Tokyo, ma anche autore dei video che potete andare a gustare sul sito di Radio 24, che abbiamo intitolato Controsoffritto, proprio perché in questa parola era chiusa un po' la filosofia delle ricette che Andrea Ribaldone prepara per gli ascoltatori di Essere Benessere, ma anche per gli ascoltatori naturalmente di Radio 24. Siamo generosi, Andrea, vero? Controsoffritto. Rapide e gustose. Allora, contro soffritto perché è più veloce la ricetta che fare un vero soffritto, è economica come un soffritto e soprattutto è semiseria, nel senso che è la parte seria è la ricetta e poi ci divertiamo anche un po' e speriamo di strappare un sorriso a chi ci guarda. Ecco, quindi non le solite ricette noiose col cuoco che fa solo cucina, quindi andate a guardare il nostro controsoffritto. Oggi cosa troverete? Troverete questa ricetta carinissima in stagione, che sono i rabatoni. Rabatoni sono degli gnocchi fatti con la ricotta, un po' di parmigiano, uovo ed erbe di campo. Siamo proprio in stagione, quindi danno tutto il gusto, anche leggermente amarognolo. Potete usare le ortiche, potete usare il tarasacco, potete usare anche le erbette, chiaramente. È un'erba particolarissima che se la trovate è buonissima, si chiama erba San Pietro o costo, chiedetela al vostro fruttivendolo. Allora, cosa fate? Questo fate con la ricotta, la impastate con l'uovo, un po' di parmigiano e le erbe, prima leggermente sbollentate, come sempre, e oggi dobbiamo dirlo a maggior ragione, sbollentate pochissimo e poi raffreddate in acqua e ghiaccio, in modo da mantenerle integre, croccanti e al tempo stesso con un gusto veramente vivo, non mortifichiamo le verdure. Tagliamo tutto e mettiamo insieme la ricotta, facciamo questi grossi gnocchi e poi li facciamo girare nella farina, da qui la parola rabatoni, rabatare, girare nella farina. Li cuociamo in acqua bollente un attimo, un goccio di olio extravergine, poco parmigiano e ancora qualche erba a guarnire, quindi come vedete velocissima. E potete vedere il video, quindi seguire fase fase questa ricetta che è rapidissima ed economica, rapida, proprio meno di quanto si prepari un soffritto, sul sito di Radio 24 subito dopo la trasmissione, per dare il tempo naturalmente di essere, come si dice, caricata. Dottor Speciani, che cosa le dice questa ricetta? La farà? Le piace? Assolutamente. Lei la conosce l'erba di San Pietro? Sì, la mia mamma mi faceva la frittata. Sì. E devo dire che nella prosa di erbette aromatiche che ho sul lago, un angoletto è fatto all'erba di San Pietro che uso nella frittata e mi faccio delle frittate buonissime. Allora, Andrea Ribaldone rimane con noi, per cui se avete bisogno di consigli, di spiegazioni, anche trucchetti, perché Andrea ci aiuterà, ci svelerà alcuni usi alternativi di frutta e verdura in cucina, ad esempio la barbabietola è così colorata, Andrea, che è un peccato usarla solamente nell'insalata. Potremmo usarla un po' come per colorare. Esatto, per colorare e dare gusto la barbabietola la frullate e poi allungate con l'acqua o con un brodo e potete cuocere in questo brodo molto colorato, ad esempio, i calamari o le seppie. Li cuocete per 3-4 minuti, sempre poco, soprattutto se usate calamari e seppie fresche. Li troverete con un colore rosato, bellissimo, saranno buoni, avranno un buon gusto e al tempo stesso saranno anche divertenti all'occhio, magari anche per i bambini sono veramente giusti. 800 24 00 24, numero verde che potete comporre per avere consigli, ricette, suggerimenti. Ma in linea con noi abbiamo Maurizio che ci chiama da Milano e Riccardo da Andria. Maurizio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Volevo chiedere e avere elementi a supporto di quanto afferma mia moglie. Io mangio spesso, quasi sempre la sera a casa, fuori, perché di giorno non ci sono mai. Sì. E mi segnala sempre di vendere anche la frutta dopo la cena, è assolutamente controindicata perché non è indicata per le diete, affermando che la frutta è il primo elemento che viene tolto nelle diete. Io invece continuo a mangiarla, anche quindi volevo avere un elemento di conferma che potesse... Attento, dottor Speciani, grana in famiglia. Grazie Maurizio per questa domanda. Me la cavo egregiamente dando ragione a tutte e due, nel senso che... nel senso che se una persona, ad esempio, ha alcune difficoltà digestive, quindi tende ad avere poi la pancia un po' gonfia piuttosto che a non digerire completamente i cibi, che ecco che è più sensato magari utilizzare la frutta prima, diciamo, di mangiare, oppure mangiarla staccata. Devo dire, in persone che però sono sane, che stanno mangiando in maniera equilibrata, che quindi non hanno problemi di ingrassamento piuttosto che altro, il mangiare a pranzo, a cena o a prima colazione della frutta insieme ad altre sostanze non dà assolutamente nessun fastidio. Risponde a quello che noi facevamo nel Paleolitico un milione di anni fa: quel che c'era e si mangiava insieme senza grossi problemi. Quindi, se tutto fila liscio, si può chiudere assolutamente Alfredo, pranzo, no, Maurizio pranzo può. E cena con un frutto, ma quello che lei sottolinea, e l'abbiamo detto più volte in trasmissione, è di iniziare con qualche cosa di crudo, vivo e colorato, che potrebbe essere proprio un'apertura. Assolutamente. E ha diversi vantaggi, non solo perché spegne un po' la fame, ma attiva una serie di reazioni. Quali, dottor Speciani? Crudo, vivo e colorato è il mio mantra da molti anni, e quindi significa che entrando in contatto con le sostanze crude, con piccoli pezzi di frutta o di verdura, possono essere anche degli elementi minimali, proprio una ciliegia, un morso di albicocca, un pezzo di sedano, uno spicchio d'arancia, piccoli elementi che a seconda delle diverse stagioni attiviamo anche dei processi di controllo delle intolleranze alimentari. Quindi c'è un aspetto di assumere minerali, di assumere vitamine, quindi di mettere dentro qualcosa di crudo, e dall'altra parte c'è questo aspetto di induzione ad una tolleranza verso i cibi, verso tutti i cibi. Noi oggi abbiamo bisogno tutti di tolleranza a livello sociale, politico, certo, e anche alimentare, e questo è un buon gesto per iniziare bene. In linea con noi abbiamo Marco Bianchi, un grande amico di Essere Benessere, divulgatore scientifico per Smart Food, un progetto di ricerca IEO. Ciao Marco, bentornato. Buongiorno a tutti quanti, anche ai tuoi ospiti. Condivido ogni parola che ho sentito fino adesso. Bene, Marco. Bene. Mi piace da morire essere un vostro amico, insomma, ecco qua. Marco ci ha raggiunto, perché quando si parla di frutta e soprattutto quando si parla di verdura, le mamme lo sanno, il problema molto delicato, panico, perché i bambini generalmente la verdura non la amano, un po' di più la frutta, ma volevamo qualche indicazione da Marco. Guarda, sulla frutta, proprio parto da quest'ultima cosa, e quello che sta riscuotendo molto successo ultimamente sono i miei spiedini, cioè i bambini sono abituati a mangiarla, a vederla intera o magari nella macedonia, ma nello spiedino diventa una roba più simpatica. Quindi faccio scegliere di solito ai bambini la frutta che più amano, sì, la mettono, la tagliano loro, la mettono loro su questi stuzzicadenti che però sono quelli colorati, ormai ce ne sono di plastica molto belli, insomma non è più il classico spiedino di legno, sì, d'acciaio. E poi sopra coliamo un pochino di cioccolato fondente e qualche granella di nocciole. Questi bambini li divorano, gli spiedini. Quindi questo è un modo per esempio consumare la frutta. Lo stesso spiedino può essere fatto in forma salata con la verdura ad esempio, perché se alterniamo dei pezzi di melanzana, di zucchina, di peperoni, a parte il colore, quindi sono veramente colorati e belli da vedere, E poi sono anche più appetitosi, perché per loro rosicchiarlo dal bastoncino è quella marcia in più, è proprio la presentazione che cambia il tutto, per non parlare poi, Nicoletta, di tutta la parte di burger, polpettame vario, come lo chiamo io. Polpettame piace... vario mi piace. Ad Andrea sì. Ribaldone immagino anche che è in linea con noi, Marco, il nostro chef. Lui fa per professione, io più per divertimento, però vedo che coi bambini funziona tantissimo questa cosa, perché... Quindi i consigli, Marco, sono: usate la fantasia, cambiate un po', non proponete ai vostri bambini sempre la stessa minestra. Ma anche quando non piace un gusto, dopo una settimana, 10 giorni, riprovare, cioè non arrendersi mai al primo colpo, primo tentativo, e poi coinvolgerli nella spesa, ecco. Io dico sempre che abbiamo tanta fretta per fare la spesa e ci sta, insomma, è comprensibile. Però una volta ogni 2 settimane facciamo una spesa con loro, sì, e facciamo che siano loro a guidare il carrello, a scegliere i colori da mettere nel carrello. E a volte l'idea può essere anche fare una spesa monocolore, quindi cuciniamo stasera tutto rosso, tutto giallo, e ci divertiamo a comprare appunto alimenti che possono poi essere combinati tra loro al fine di avere dei piatti appunto colorati o monocromatici, e anche questo diventa un gioco per il bambino. Quindi insomma, giochiamo anche con i sapori, con i colori. Grazie a Marco Bianchi per essere stato con noi. Proviamo allora anche spiedini e polpettame vario, come suggerisce Marco Bianchi. Grazie, a presto. Un abbraccio a tutti. Ciao. Essere e benessere. Vorrei 0,5 chilo di pesche e noci. Le do queste, sono molto più belle. Ah, dimenticavo, il signore è un esteta. E sì, da 15 giorni se ne va la sera con chili di invenduto. Mi sono detto, avrà vinto un maiale alla fiera del prosciutto. Invece no, il signore sta imparando a dipingere. E sì, di giorno vende porri e insalate e la sera dipinge rape. Che volete che me ne faccia di un ortaggio così? Un buon suggeritore come in teatro, nascosto dietro le finestrelle dei seminterrati, pronto a fornire una risposta sferzante. I timidi avrebbero finalmente l'ultima parola. Ve la ricordate dal magnifico mondo di Amélie? Con il dottor Speciani abbiamo pensato di suggerirvi di proporvi una domanda che è legata molto al mondo della frutta e della verdura. Tema di oggi pienamente preso. Perché? Perché abbiamo un libro che già conosciamo, scritto dal dottor Speciani, Come una pentola a pressione, in cui il discorso del consumo di frutta e verdura viene affrontato in modo molto preciso e puntuale, come sempre, come nei libri del dottor Speciani. E la domanda allora è questa: frutta e verdura vengono classificate rispetto a un valore, possiamo diciamo che c'è tra i vari parametri che vengono valutati, c'è questo che oggi sta diventando molto utile, soprattutto perché si opera di well-being, di wellness, di salute. Si chiama ORAC. Esatto. Che cos'è? 800 24 00 24, la prima risposta corretta in diretta, come una pentola a pressione di Attilio Speciani. Andrea, vogliamo raccontare e dire, ricordare come vanno cotte le verdure? Molti ascoltatori mi stanno scrivendo: ma a me piacciono solo cotte. Benissimo, attenzione che però in cottura si possono perdere le vitamine, i sali minerali possono andare via con l'acqua di cottura, quindi acqua calda, acqua fredda? Allora, è questo, è davvero, chiariamoci una volta per tutte, e è stato già detto tante volte, ma è importante le verdure cuocerle croccanti, quindi una cottura veramente veloce, non dobbiamo stracuocere, questa è la prima regola, perché altrimenti perdiamo il sapore, l'unicità, io parlo per come cuoco, ma sicuramente i medici dicono perdiamo tutte le vitamine, perdiamo i sali, perdiamo ciò che c'è di buono nelle verdure, quindi croccanti, veloce. L'acqua deve essere bollente, quindi non mettiamole con l'acqua fredda, altrimenti ora che l'acqua comincia a prendere bollore avremo già passato probabilmente il punto di cottura. Certo. Quindi acqua bollente, un pizzico di sale marino, non troppo, un pizzico di sale marino, sì. E poi come sono, arriviamo al punto di cottura che ci piace, le togliamo e anche se le mangiamo subito, le togliamo e le raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Questo perché? Perché blocchiamo, sbianchiamo, si dice in gergo, sì. Blocchiamo immediatamente la cottura. Poi se le vogliamo mangiare subito dopo, o le facciamo in insalata, quindi le togliamo dall'acqua, le asciughiamo e le condiamo come ci piace, oppure le riscaldiamo un'altra volta, quando anche in padella con un goccio d'olio, con quello che ci interessa, ma avremo giusto il tempo di riscaldarle e non di ricuocerle. Questo è molto molto importante. Ecco, seguiamo attentamente questa regola e se volete seguire la ricetta di controsoffritto andate sul sito di Radio 24 subito dopo la trasmissione, sarete accompagnati da Andrea Ribaldone passo passo. Grazie ad Andrea Ribaldone per essere stato con noi e grazie per le sue ricette, un abbraccio, a presto. Ciao a tutti, grazie Nico. Allora, la domanda di oggi è: che cos'è l'ORAC? Che cosa misura? 800 24 00 24, per ricevere a casa come una pentola a pressione. Riccardo, buongiorno da Andria. Buongiorno. Eccoci. Senta, buongiorno, mi sente? Sì, forza. Sì, senta, io volevo un parere dal dottore, siccome abbiamo delle difficoltà a casa, ho una bambina di 11 anni, in pratica da 7 mesi ha detto che non mangerà più essere viventi, quindi non mangia né carne né pesce. Chissà perché, vabbè, ha preso questa decisione qui. Rispettabilissima, peraltro. Non mangia più neanche più il prosciutto, sai, di solito va bene, però pasta, insomma, non mangia più. Si nutre di frutta abbondante e mangia la pasta così. Cioè, ma non so fino a che punto può andare avanti in questo modo, visto e considerato che potrebbe sostituire, diciamo, la carne con i legumi abbinati, ad esempio, mangia neanche questo. Per cui rischia, se non accompagnata, se non seguita magari da un medico che accompagni e l'accompagni in questa sua decisione, di avere delle carenze. Dottor Speciani, ma direi abbiamo tre elementi velocissimi. Uno è legato all'età. L'età 11, tra gli 11, 13, 14 anni, spesso i bambini riescono a creare un'opposizione alla struttura familiare solo attraverso delle scelte alimentari. È un'età in cui si sviluppa l'autonomia, quindi un bambino, un ragazzo, un adolescentino, anziché sparare un colpo di bazooka in testa al papà e alla mamma, che è cosa poco civile, come dire, sceglie in maniera differente. Quindi va valutato l'aspetto psicologico prima di tutto. Il secondo, dal punto di vista invece strutturale, indubbiamente una pasta integrale insieme alla frutta fornisce almeno un quantitativo di proteine che è minimo, ma potrebbe essere utile. Di fatto però è bene che in un quadro di questo genere vengano, intanto la bambina venga educata ad utilizzare anche sostanze tipo le uova, tipo le nocciole, le mandorle, quindi sostanze ricche. Chiaramente questa è una situazione che, portata avanti a lungo, può creare una situazione di carenza, per cui va confrontata con un attimo di attenzione. Ultimo velocissimo, la bambina potrebbe semplicemente non digerire alcuni alimenti e quindi avere magari un minimo di fastidio nella digestione a livello pancreatico, biliare, eccetera, avere e rimosso quindi delle cose. È un tema che va confrontato col medico. Di certo, mangiare solo frutta e pasta può portare delle carenze se prolungato nel tempo. Chiara ci chiama da Pistoia, mi segnalano dalla redazione che ha la risposta per noi. Che cos'è l'ORAC? Chiara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno e complimenti per le trasmissioni così interessanti. Ma io direi che l'ORAC è un indice della capacità di un alimento di contrastare l'ossidazione che c'è a livello cellulare, quindi quanto più è alto è questo livello, quanto maggiore è la capacità di un alimento. È un applauso. È un applauso, brava Chiara, riceve a casa come una pentola a pressione. Abbiamo 3 secondi per salutarci, dottor Speciani. Ciao. Arrivederci. A Roberto Scaltriti, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Vi aspettiamo lunedì. Essere e benessere.